Topic of our talk today is making the transition from physically unpleasant sensations to physically pleasant sensations, and from difficult mental states to more beautiful mental states. Quindi l'argomento del discorso di questa sera è come passare dagli stati, come dire, delle sensazioni fisiche piacevoli alle sensazioni fisiche piacevoli, e dagli stati mentali difficili a stati mentali invece belli. Quindi come fare la transizione dagli uni agli altri. And that, this talk is meant to support all of you in your practice. E quindi l'intenzione di questo discorso è quello di sostenere tutti voi nella vostra pratica. Now, as we observe predominant physical and mental formations, it may happen that suddenly we come across all sorts of difficult formations, both physically as well as mentally. Mentre osserviamo i fenomeni sia fisici che mentali predominanti, può capitare di incontrare durante la nostra pratica appunto delle situazioni, delle esperienze difficili sia sul piano fisico che su quello mentale. So, among difficult physical sensations, a variety of pains is likely to occur, and then there may be tension, stiffness, and other unpleasant sensations arising. Quindi per quanto riguarda le sensazioni fisiche difficili potrebbero esserci dolori di varia natura, inoltre delle tensioni o degli irrigidimenti o qualsiasi sensazione spiacevole che si presenti nel corpo. And then it may also happen that a number of difficult mental states, unwholesome mental states arise, such as, and we've dealt with these already in the past, sense desire, as well as ill will, as well as sloth and torpor, and then restlessness and remorse and skeptical doubt. Inoltre potrebbero sorgere degli stati mentali difficili, e di questo abbiamo già parlato nei discorsi precedenti, e sono per esempio i desideri sensoriali o la malevolenza, la pigrizia, il torpore, l'irrequietezza, il rimorso o il dubbio scettico. Now, when this particular phase in the meditation practice takes place, then retreatants tend to experience three types of, or in highlighted manner, three types of dukkha, of unsatisfactoriness. Quindi quando si attraversa questa fase della pratica, i meditanti fanno esperienza soprattutto di tre diversi tipi di dukkha, cioè di insoddisfazione. And certainly the first one is unsatisfactoriness due to pain, in the Pali scripture language known as dukkha, dukkata. Il primo tipo è l'insoddisfazione legata al dolore fisico, e nella lingua Pali questo è chiamato dukkha dukkata. Now, when this form of dukkha is predominant, then it tends to influence the rising and falling movement of the abdomen, and the experience becomes somewhat unpleasant. Quindi quando si sperimenta questo tipo di dukkha, allora questo dolore fisico tende a influenzare l'addome, come si percepisce l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, che diventa spiacevole. And suddenly then, the number of unpleasant or difficult bodily sensations might suddenly greatly increase over, let's say, previous sits. Il numero delle sensazioni fisiche spiacevoli potrebbe aumentare rispetto, per esempio, alle sedute precedenti. And certainly this much physical suffering is certainly already bad enough, but things get even worse. And so, then to make things certainly worse, the mind also starts to behave a certain way, in a certain way, and predominantly, unwholesome mental states certainly tend to arise as the ones certainly that were mentioned earlier on. Quindi già questa sofferenza fisica, diciamo, questo disagio fisico già di per sé è abbastanza difficile, ma a questo spesso si aggiungono degli stati mentali difficili come quelli che abbiamo menzionato prima. And suddenly then a retreatant is likely to also become more aware of a second type of suffering or unsatisfactoriness, which is known as certain suffering due to formation, sankhara dukkata in the Pali scriptural language. A questo punto il meditante entra in contatto, comincia a fare l'esperienza di un altro tipo di sofferenza, un altro tipo di insoddisfazione, che è l'insoddisfazione che deriva dalle formazioni, e questo nella lingua pali si chiama sankhara dukkata. And certainly this thing comes in different forms, namely wanting to let's say have a good night or after night certain sleep, wanting to stay in bed, and yet another day is there or has come, and certain one has to get up. E questo quindi si manifesta in diverse forme. Per esempio, dopo una notte di riposo, uno si sveglia, vorrebbe ancora stare a letto, godersi il letto, e invece è costretto ad alzarsi ed affrontare un'altra giornata. And suddenly then one has to get going, and suddenly then it's for sitting comes, and then it's time for breakfast. One has one's satna breakfast, and satna then has to brush one's teeth afterwards. Quindi uno poi deve fare, deve entrare in sala, fare la propria seduta, poi andare a colazione, consumare la colazione, poi lavarsi i denti. No. Providing this certain body with just one meal a day is not enough, and certain brushing one's teeth once a day is also not enough, and we tend to take several meals a day, and thus we also have to brush our teeth several times a day. Quindi nutrire questo corpo con un pasto solo al giorno non è sufficiente, e quindi ne dobbiamo prendere un altro, così come dobbiamo poi di nuovo lavarci i denti dopo il secondo passo, e così via. And suddenly then, in order to assure that suddenly this body remains healthy, we have to move it around, and suddenly then we might even have to exercise it, etc. So there's all sorts of activities that are necessary to maintain this body, and these in the end are troublesome because we need to repeat them again and again and again. E non solo questo, però per mantenere il corpo in buona salute dobbiamo muoverci, forse dobbiamo anche fare degli esercizi, quindi ci rendiamo conto che per mantenere questo nostro corpo dobbiamo ripetutamente svolgere delle attività che sono poi sempre le stesse un giorno dopo l'altro. And so just imagine how wonderful it would be if it would be enough to brush one's teeth just once in a lifetime, and suddenly that's it, and no more, no visits to the dentist, etc. Much time could be saved this way, and much money also could be saved this way. Quindi pensate come sarebbe bello se si potesse lavarsi i denti una volta sola in tutta la vita. Quindi si risparmierebbe tantissimo tempo e anche tantissimi soldi, e la vita sarebbe molto più facile. So the fact that, we have to that formations keep the fact that things keep changing, nothing is certainly permanent, that certainly then causes certainly a form or that amounts to a form of suffering. Quindi il fatto che le cose continuano a cambiare, che sono impermanenti, beh, questo risulta in una forma di sofferenza. No, then we have suffering due to change, viparinama, dukkha, and this is certainly said with regard to pleasant feelings. So if, for instance, we have a pleasant feeling, then this is not going to last forever. Quindi vipari jnana, dukkha, è la sofferenza che deriva proprio dal fatto che c'è questo continuo cambiamento nelle formazioni, legato quindi all'impermanenza. E soprattutto è relativo alle sensazioni piacevoli mentali. Il fatto che una sensazione piacevole mentale non dura molto, e questa è un'esperienza che insomma ci fa vedere questo tipo di sofferenza legata all'impermanenza. And so, expressed in a more general way or in a more wider way, one could certainly say formations certainly are suffering due to change, because feelings keep changing and they do not provide any lasting pleasure or happiness. Quindi, detto in un altro modo, esiste questa sofferenza legata al cambiamento delle formazioni, perché le sensazioni continuano appunto a cambiare, e anche le sensazioni piacevoli non sono durature. No, when we experience these various forms of dukkha in a very direct manner, there's no way of escaping these, then we might suddenly get a bit disappointed. Quindi quando facciamo esperienza di questi vari tipi di dukkha, lo facciamo in un modo molto diretto e chiaro, allora potremmo essere un pochino delusi, potremmo deprimerci un po'. And suddenly then it's certainly important to know how to deal with this certain situation. E quindi è importante sapere come gestire questa situazione. Now, when these difficult physical as well as mental difficulties arise, then it's important that we don't certainly see them, for instance, as certain enemies. Quindi quando sorgono queste esperienze difficili, sia fisiche che mentali, è importante che noi non li vediamo come dei nemici. But rather that suddenly we see them as friends, because they help us to gain more intuitive understanding. Ma piuttosto occorre vederli come degli amici, perché ci aiutano a sviluppare una comprensione intuitiva più profonda. Now, working for instance with difficult physical sensations might also help to develop concentration. Ad esempio, lavorare con delle sensazioni fisiche difficili può aiutarci a sviluppare la concentrazione. Now, when dealing with difficult physical and or mental objects, the attitude that we bring towards these objects, the attitude in our observation will make a huge difference. Quindi l'atteggiamento che avremo nei confronti di queste esperienze difficili, fisiche e mentali, sarà quello che proprio fa la differenza. No. To deal with these certain formations with patience will help a great deal. Quindi affrontare queste situazioni con pazienza aiuterà moltissimo. And so the characteristic of Pratnya patience is simply acceptance, accepting what is as it is. Quindi la caratteristica della pazienza è proprio l'accettazione, cioè l'accettare le cose così come sono. And certainly its function is to endure both the desirable as well as the undesirable. E la sua funzione è quella di sopportare sia le cose desiderabili che quelle non desiderabili. And its manifestation is as tolerance or non-opposition. La sua manifestazione è la tolleranza o la non opposizione. Now, usually what certainly happens when we experience difficult physical or mental formations, then we tend to fight them. We tend to, we want to get rid of them, and we want to escape from them. And does this approach really help or not? Quindi quello che vogliamo fare quando si presentano queste situazioni difficili fisiche e mentali è di combatterle, di cercare di eliminarle o di fuggire da esse. Ma questo in realtà ci aiuta davvero? Non aiuta. There you go. So this doesn't help at all. In fact, if we fight these difficult experiences, then things get worse. And the physical pains might increase, and the unwholesome mental states might also intensify. In realtà questo non aiuta affatto, anzi, se noi combattiamo contro queste situazioni difficili, allora le sensazioni fisiche spiacevoli potrebbero aumentare e gli stati mentali non salutari potrebbero essere ancora più intensi. So when we then take this other approach and we observe objects with an accepting attitude, welcoming the objects as they are, not wishing them to be any different, and certainly we also observe them with patience, then we already stand a better chance to deal with them properly. And in addition to this, in the face of certain difficult physical or mental objects, obviously we need some effort, we need some ability to withstand these certain formations, some endurance, so to speak. Perseverance is the word. Se invece il nostro atteggiamento è un atteggiamento di apertura, di accettazione, se in qualche modo appunto riceviamo queste sensazioni o stati mentali difficili così come sono, senza volerli cambiare, beh, questo sicuramente ci aiuterà ad affrontarli meglio. E inoltre sarà necessario anche mettere un certo sforzo, una certa tolleranza, una certa perseveranza nel sopportare la difficoltà dello stare con queste situazioni. When those difficult formations come on, then you don't just run away, but rather with perseverance suddenly you just deal with them as they are occurring. E quindi questo significa che quando le difficoltà sorgono, semplicemente non cerchiamo di scappare, ma piuttosto con perseveranza rimaniamo con ciò che c'è. No, in this connection, another mental quality helps a great deal, or not a lot, namely detachment, a detached observation of what is. Un'altra un'altra qualità mentale importante in questo contesto è il distacco, cioè il riuscire a osservare con distacco qualunque cosa si presenti. Now, detachment is certainly in the sense that we don't get involved and we don't let these formations or objects affect us. Mentally, nor physically. Quindi il distacco significa che non ci facciamo coinvolgere da questi oggetti che sorgono e we don't get involved and E facciamo in modo che queste situazioni difficili non ci influenzino più di tanto. And suddenly, so in basically, you know, we just suddenly kind of step back a bit and observe these same formations from from a certain distance, and that helps may help to some extent. Quindi si tratta semplicemente di fare un passo indietro e quindi osservare ciò che sta accadendo da una certa distanza, e questo potrebbe aiutare effettivamente. Now, also not to identify with what is occurring will make things easier. As long as we identify with formations, get entangled in them, take them personally, like it's happening to me, and so on, this will make life quite difficult. Sì, anche il fatto di non identificarsi con le formazioni, questo può facilitare il nostro lavoro. Non identificarsi significa non farci un po' intrappolare in quello che succede, non prendere personalmente, no? Come dire, questo mi sta succedendo a me. Appunto, questo tipo di atteggiamento può aiutare a superare la difficoltà. No. When facing difficulties, naturally the mind will look for ways to escape, and ways to do this is simply to go off into the future, to start thinking about the future, or to go off into the past and get lost in memories. Quindi quello che succede nella mente quando sorgono degli stati difficili o delle sensazioni spiacevoli è che la mente cerca di allontanarsi, di scappare, di evitarle, e spesso va nel futuro, con pensieri del futuro, oppure comincia a pensare al passato e si perde per esempio nei ricordi. And certainly, so what is certainly required, and certainly at this point, is really present moment mindfulness. Quindi qui ciò che è richiesto è proprio una consapevolezza nel momento presente. And certainly, this mindfulness also should be as much as possible continuous. E questa consapevolezza deve essere il più possibile continua. Because when it's continuous, then the unwholesome mental states have less opportunity to arise. Perché quando la consapevolezza è continua, gli stati mentali negativi o non salutari hanno meno possibilità di sorgere. Now, when we then continue with our practice, and suddenly we gradually make peace with formations, and we no longer fight them, but we accept pain as pain. We accept a difficult mental state as a difficult mental state. We don't want things to be different. Then the practice will change and it will move on. Quindi quando arriviamo a un punto nella nostra pratica in cui non combattiamo più contro le formazioni, ma siamo in pace con esse, quindi accettiamo il dolore fisico, per esempio, o uno stato mentale difficile, ecco, quando arriviamo a questo punto, allora si vedrà un vero cambiamento nella nostra pratica. And with that then, we might pretty soon notice a change both in the body as well as in the mind. Namely, that difficult physical formations gradually subside, and certainly difficult unwholesome mental states also start to subside. E quindi noteremo un cambiamento anche a livello delle sensazioni fisiche e degli stati mentali. Cioè gli stati fisici difficili, i dolori o gli stati spiacevoli, le sensazioni spiacevoli cominceranno gradualmente a sparire, così come gli stati mentali non salutari nella mente cominceranno a sparire. And certainly the rising falling movement of the abdomen will also manifest in a different way, different from what it was like before. E anche l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome sarà sperimentato in un modo diverso rispetto a prima. Now, in this certain particular phase of the practice gaining a right view or a right understanding, then will make the difference. Quindi in questa fase della pratica quello che farà la differenza è il fatto proprio di raggiungere, di ottenere una giusta comprensione, no, una retta comprensione. When over time, as a retreatant, we see how formations keep changing all the time, basically, or sometimes even from moment to moment to moment, and so, when we further see that formations are unsatisfactory, then sooner or later we might realize that sapna formations are not happening according to our whims and fancies, according to our wishes. Quindi nel corso della pratica cominciamo a vedere che le formazioni cambiano in continuazione, quindi sono impermanenti, poi vediamo la loro natura insoddisfacente e di conseguenza vediamo anche che le formazioni non capitano, come dire, non sono controllabili, non hanno, non capitano secondo i nostri desideri o come noi vorremmo che fossero. And certainly these formations, they change of their own accord. These changes don't happen according to our wishes. Quindi i cambiamenti che avvengono vengono, come dire, autonomamente per loro conto e non secondo i nostri desideri. We wish for pleasant experiences to arise, and all we get is physical as well as mental dukkha. Noi vogliamo delle esperienze piacevoli e invece tutto quello che otteniamo è un dukkha fisico o mentale. So where is this ability to control? Quindi dov'è questa abilità di controllare? And certainly when we keep experiencing this again and again, we might gradually come to the conclusion that all things are not self. Quindi se continuiamo ripetutamente a fare questo tipo di esperienza, allora arriveremo gradualmente alla comprensione che ogni cosa, ogni fenomeno non ha un sé, non ha un sé permanente. No. Lessons learned during earlier stages in the practice, as explained yesterday, for instance, when one observes at the beginning of the practice that in the end there are just these physical and mental formations, this lesson already will help to understand that all things are not self. Quindi le esperienze precedentemente, scusate, le lezioni precedentemente imparate nella pratica, per esempio quelle di cui abbiamo parlato ieri, il fatto cioè che esistono solo fenomeni fisici o mentali, beh, questo aiuterà ulteriormente a comprendere, a una comprensione diciamo più profonda del non sé. And so one notices that formations arise of their own accord owing to certain conditions, causes and certain conditions, then again this certainly will weaken the sense of a self that is in control. E inoltre quando si fa esperienza di questi fenomeni che sorgono per loro conto e di solito come conseguenza di una causa, quindi quando si vede il rapporto di causa-effetto, beh, questo ulteriormente demolisce questa idea che si può avere errata di un sé che controlla le esperienze. And when formations are directly experienced as being impermanent, as being unsatisfactory, then how can they be under the control of a self? Quando i fenomeni quindi sono visti come impermanenti e insoddisfacenti, come possono quindi essere sotto il controllo di un sé? And Satya, the Buddha argued Satya yet in another way by saying if Satya really a self were to exist that is in control of things, then this Satya self should be autonomous and Satya should have certain power. And Satya, thus then it should be possible to say, okay, I don't want to grow old, or I don't want to fall sick, but in reality this is not happening. Quindi il Buddha diceva, beh, se ci fosse veramente un sé, allora questo sé sarebbe autonomo, sarebbe in controllo della situazione, allora sarebbe possibile decidere, per esempio, di non invecchiare, oppure di non ammalarsi, ma come sappiamo questo invece non è possibile. Now, coming to terms with this new way of seeing things, namely that formations are happening of their own accord owing to certain causes and certain conditions, this may actually not be that easy. Quindi arrivare a questa conclusione, insomma, che le cose capitano per loro conto, seguendo una legge di causa effetto, beh, questa comprensione potrebbe non essere così facile. And so, the mind revolts against this kind of an understanding. La mente potrebbe ribellarsi a questo tipo di comprensione. It might not certainly want to accept this. Potrebbe non voler accettare. And so, you're thinking that, well, all my life I've been running the show, and now there's supposed to be no self. How can this be? So life thing is going to or how can life continue? Uno potrebbe pensare, beh, io tutta la vita ritenevo di essere in controllo dello spettacolo, il regista, diciamo, dello spettacolo, invece adesso vengo a scoprire che non c'è un sé, e quindi com'è possibile tutto questo? How is life possible? Yes. E la vita com'è possibile? Now, life does go on, and actually quite nicely. Effettivamente la vita va avanti e anche in un modo bello, diciamo. Now, it's just a matter of experiencing the facts that formation, all things are not self, and realizing that life goes on, and with this then one can accept and move ahead. E quindi è solo quando uno si rende conto che tutti i fenomeni sono privi di un sé, ma che la vita continua, allora questo permette alla propria pratica di andare avanti. And now, during this certain phase in the practice, as Satya mentioned earlier on, gradually physical difficult physical formations and difficult mental formations gradually subside. Quindi in questa fase della pratica, come abbiamo già detto, gli stati fisici spiacevoli e gli stati mentali difficili gradualmente diminuiscono. And certainly in their place, then most or predominantly wholesome mental states, beautiful mental states will arise. E al loro posto sorgeranno nella mente degli stati salutari e meravigliosi. And certain beautiful, mostly beautiful mental states, such as illumination, such as keen knowledge, such as joy, tranquility, happiness, and so on. E quindi quali saranno questi stati belli della mente? Beh, quello che viene chiamato illuminazione, che però è un po' ambiguo in italiano, luminosità, forse meglio, oppure una chiara comprensione, uno stato di calma, la pace, felicità, gioia, e così via. Now, obviously when these mental states suddenly come up, then and certain predominantly whole or pleasant physical formations come up in the body, then things suddenly seem to be okay again. Quindi quando sorgono questi stati belli nella mente e quando ci sono anche degli stati piacevoli nel corpo, allora uno può pensare che adesso le cose finalmente vadano meglio. No. In this phase of the practice, yet another difficulty might suddenly arise, namely when these predominantly wholesome mental states suddenly arise, then the mind suddenly tends to attach or get attached to them, and suddenly tends to develop a craving for them, so wanting to experience more of the same. Quindi in questa fase della pratica però può esserci un'ulteriore difficoltà, e cioè che quando si sperimentano questi stati così belli, così piacevoli, può sorgere nella mente dell'attaccamento e il desiderio di provarli ancora, e di, quindi desiderarli. So for instance, when a sense of happiness arises, then retreatants tend to experience this both physically as well as mentally as a relative absence of physical pains, a general sense of physical as well as mental well-being, a sense of relaxation both physical as well as mental, and then the mind, or in the mind, there's a sense of contentment or happiness. Quindi quando sorge la felicità, diciamo, la contentezza nella mente, questa si manifesta con un senso di agio, di rilassamento nel corpo, di assenza di dolori fisici, e anche nella mente c'è un senso di appagamento, no? Di felicità. And suddenly, the state of the body at that certain time has been once described by a retreatant as if having received a full body massage. È un meditante una volta ha descritto questa sensazione di agio nel corpo dicendo che era come aver ricevuto un massaggio totale, no? A tutto il corpo. Now, obviously, when all these wonderful experiences take place, then attachment to this craving for more will arise. Quindi, ovviamente, quando ci saranno tutti questi stati piacevoli nel corpo e nella mente, allora è facile che sorga dell'attaccamento o del desiderio. And then there's a potential for yet another difficulty, namely, based on these experiences, a sense of pride and conceit might arise. One might suddenly think, oh, I'm having all these wonderful experiences, and my practice must be very good, and I might be the best retreatant here in this group. E quindi di conseguenza, come potenziale, diciamo, di questo stato di benessere psicofisico, c'è ancora un'altra difficoltà che potrebbe sorgere, che è quella del, un altro rischio, che è quello dell'orgoglio, della presunzione, che uno potrebbe pensare, ah, la mia pratica sta andando veramente bene, io sono il praticante migliore di tutto il gruppo. There's nothing wrong with the happiness or contentment itself. The problem is the pride and conceit, and earlier on the craving and attachment. Quindi ovviamente non c'è nulla di male con queste esperienze di felicità e di contentezza, la cosa che invece può creare problemi è proprio questo attaccamento o l'orgoglio e la presunzione. No, yet another potential danger exists, and I'm saying potential, it's not for each and every retreatant, namely And then based on one's certain experiences, and maybe also if one has had some vivid experiences of illumination, seeing various bright and colorful lights, then one might think this must be enlightenment, and the Dhamma has been gained, now I can go home. Un altro potenziale pericolo, quindi solo potenziale, perché non è detto che tutti ci finiscano dentro, insomma, è quello di pensare, siccome ci sono tutte queste belle esperienze, una in particolare questa della luminosità, quindi si vedono delle luci, per esempio, allora un meditante potrebbe pensare di avere raggiunto l'illuminazione, di aver assaggiato il Dhamma, diciamo, e quindi il suo lavoro è finito, può andare a casa. No, obviously this is not the case, there's still much further to go, and this is a case of wrong view. Ovviamente non è questo il caso, c'è ancora parecchia strada da fare, e questo è un tipico caso di visione errata. So now this thing too comes as a potential difficulty, and one simply just needs to be aware of it and not get caught up in it. Quindi questo è solo un pericolo, una difficoltà potenziale, basta esserne consapevoli e non farsi, come dire, prendere da questa cosa. Now, when experiencing tranquility and joy and tranquility and happiness, etc., these certain experiences may be quite satisfying, and one might not suddenly get enough of them, and so get suddenly pretty attached to them, and thus precious time gets suddenly wasted in one's meditation practice. E quindi queste esperienze di tranquillità, di gioia, di felicità sono molto piacevoli, e c'è appunto, come abbiamo detto, il rischio dell'attaccamento, del desiderare di averne sempre di più, e quindi il meditante potrebbe perdere del tempo prezioso, cioè anziché andare avanti con la sua pratica potrebbe rimanere un po' impigliato in queste esperienze. In the text, this particular point in the practice has been referred to as certainly the purification of knowledge of what is the correct path and the not correct path. Quindi i testi parlano di questa fase particolare della pratica come della purificazione che deriva dal sapere cosa è il sentiero e cosa non è il sentiero. And so the incorrect path is getting attached, getting lost in these wonderful experiences, and the correct path is simply to realize, okay, these are just ordinary formations, nothing special, and to be mindful of them, to know their nature, and in the practice we move on. Quindi ovviamente la visione errata del sentiero è quella che porta a essere attaccati a queste belle esperienze, mentre invece la visione corretta del sentiero è quello di vederle come dei normali fenomeni che si presentano e riconoscerle, osservarle ovviamente, e poi andare avanti con la propria pratica. No, sees the development in one's practice over time, first experiencing a number of unwholesome mental states, especially the hindrances, and then experiencing after a while predominantly wholesome mental states. With this, one can learn a great deal about unwholesome mental states versus wholesome mental states. There's a big contrast between the two, and from this contrast wisdom arises. Quindi un meditante a questo punto della pratica capisce molto bene la differenza che c'è tra gli stati mentali non salutari, come i cinque ostacoli per esempio, quelli che ha sperimentato all'inizio della sua pratica, e invece questi stati mentali salutari. E quindi il fatto di vedere questo contrasto porta a una certa saggezza. So, wholesomeness, kusala, has been defined as faultless happy results. Quindi questi stati positivi della mente. Kusala having faultless happy results. Che si chiamano kusala nella lingua pali, e questo significa l'avere dei risultati felici e senza macchie, incontaminati. And certainly the function of certain wholesome states is that they destroy the unwholesomeness. E la loro funzione è quella di distruggere gli stati non salutari. And certainly the manifestation of wholesomeness is given as purity. La manifestazione di questi stati salutari è data come la purezza. And in the case of unwholesomeness, especially unwholesome mental state, its characteristic is certainly that it has faultiness and bad results as its characteristic. Invece la caratteristica degli stati non salutari è quello di portare a dei risultati invece difettosi e contaminati, diciamo. And so, the function of unwholesomeness is to produce harm or misfortune. La funzione è quella di produrre un danno o della sfortuna. And so, they manifest as turbidity in the mind, as obscurity or darkness in the mind. La manifestazione è quella di procurare nella mente una turbolenza e un'oscurità. So, mental states such as certain delusion and certain fearless moral fearlessness of wrong doing, shamelessness and restlessness, as well as certain greed, hatred, and then furthermore holding wrong views, pride and conceit, and all the hindrances, etc. These are all unwholesome mental states. Quindi, per fare un elenco di questi stati mentali non salutari, c'è dunque il timore, la paura, shamelessness. Non avere, come dire, nessun pudore, ecco, siamo un po' spudorati. Poi ovviamente l'irrequietezza, tutti i cinque ostacoli che abbiamo già nominato, l'illusione anche, wrong views, e avere anche la visione delle opinioni errate, pride and conceit, l'orgoglio e la presunzione. No, on the other hand, among the beautiful mental states, we have mental factors such as faith, such as mindfulness, moral shame, fear of wrong, moral fear of wrongdoing, non-greed, non-hatred, tranquility, and wisdom, and many others. E invece nella categoria degli stati mentali positivi o salutari abbiamo la fede, il timore di fare del male, la vergogna per un'azione sbagliata, poi abbiamo la consapevolezza, ovviamente, la saggezza, tranquility, la tranquillità, eccetera. Yeah. The unskilled, when one doesn't quite understand yet the nature of unwholesome mental states and wholesome mental states, then easily one gets caught up in this mental pattern of trying to get rid of unwholesome mental states and trying to hold on to the beautiful mental states. Quindi quando non si è ancora arrivati a conoscere la vera natura degli stati mentali non salutari e di quelli salutari, allora facilmente si rimane un po' intrappolati in questo schema mentale, per cui si cerca di liberarsi dagli stati mentali non salutari e ci si aggrappa agli stati mentali salutari. No. If one keeps doing this, pushing away unwholesome mental states and holding on to the beautiful mental states, and then this can be very exhausting for the mind. Se uno continua in questa tendenza, questa abitudine mentale di allontanare gli stati mentali non salutari e invece afferrare, rimanere aggrappato o ricercare gli stati mentali salutari, beh, questo può essere molto stancante per la mente. And so gradually, with more practice, one comes to realize, well, these are all just objects of observation, and then one observes them, or one gains a more balanced attitude, balanced outlook towards these mental states. Ma con l'andare avanti della pratica uno si rende conto che sono semplicemente dei fenomeni che sorgono, che si presentano, e quindi sviluppa un atteggiamento più equilibrato, comincia a vederli da un punto di vista un pochino più distaccato. Now, the mind also gradually understands suddenly the importance of the purity of the mind, purity in the sense of absence of unwholesome mental states. E la persona capisce anche l'importanza della purezza della mente, e per purezza si intende l'assenza di questi stati mentali non salutari. Now, with these points in mind, it might suddenly become, or it might be easier to make this transition from difficult bodily or unpleasant bodily formations to more pleasant bodily formations, and from unwholesome mental states to beautiful mental states. Quindi, tenendo a mente queste cose, potrebbe fare più facilmente, operare più facilmente questa transizione tra gli stati fisici difficili e invece quelli meno difficili, meno sofferenti, e sul piano mentale tra gli stati mentali non salutari a quelli invece più salutari. And so allow me to conclude today's Dhamma talk by wishing, by successfully making this certain transition in this important transition in the practice, may your meditation deepen more and more, and eventually may you realize the ultimate peace of mind. Allora terminerò qui questo discorso augurandovi di operare con successo questa transizione tra stati psicofisici difficili e meno difficili, insomma più salutari, e attraverso questo passaggio nella vostra pratica che voi possiate giungere alla pace ultima. And this is it for today. Sadhu, sadhu.